Io ci sono. Sei Vai. uno l'ultimo? Sì, mancavi Uno di solo tu. noi è incinto, ma non lo sapevamo, ed è il personaggio di Ica. Era Talieta un gemello. Non è facile. Erano due. Ok. Come stavamo dicendo, avete realizzato la vostra parentela, qualcuno di voi ha realizzato che uno dei suoi familiari è in pericolo, gli altri stanno bene in realtà, cioè sono stanchi, c'è sonno, però nel chill. Comunque, dice Dayton, per spezzare il silenzio, credo che ormai Thea abbia finito. Se volete vi porto da lei. So, magari ci curiamo prima, visto che abbiamo letteralmente zero. Sì, c'ha un robo, un bar, una roba per curarsi. La macchina per curarsi ce l'ho al piano di sopra, in realtà. Beh, Che famo? possiamo. Scusami, no, abbiamo il livello meta. Quanto ci mettiamo a curarci con la macchinetta? Ci vuole fino a 5 minuti in base all'entità delle vostre ferite a testa. Se volete ci dividiamo in due, in due gruppi, e uno va a curarsi, l'altro va da Tea. E quello messo peggio non vuoi andare da te? Scusa. A me solo la presenza di mia moglie mi cura. Dai, allora. Altrimenti fate un saluto a Tea e poi vi porto di sotto, di sopra. Anche, sì, va bene, va bene. Dai, andiamo prima a salutare, avrei anche. Ok, abbandona lì il bicchiere che stava pulendo, passa vicino, ma non ha troppa cioè, ma non troppo a Keyel, le gira proprio intorno, la squadra, la guarda da ogni punto di vista. Va alla porta e la sigilla, cioè rimette tutti gli strumenti che c'erano per bloccarla. Si assicura che gli scuri delle finestre siano ben tesi. Tira fuori una chiave, apparentemente dal nulla, e apre una porticina che era dietro il suo bancone. Porticina molto piccola, ci si passa una volta a malapena. I più grossi di voi devono mettersi vagamente di lato. Vi fa segno di entrare uno alla volta. Dovrei. Ah, apro io. Ok. Vado. Non è così importante l'ordine, quindi non ho voglia di stare qua un'ora a sentire voi che ci mettete tanto a decidere. Mentre scendete le scale, sentite un odore intenso, come se foste in un bosco dopo una pioggia estiva. Il legno che costituisce le pareti e gli scalini è resistente, levigato tutt'altro che marcio, per cui l'odore viene da un'altra parte. I vostri passi rimbombano nell'aria e fanno scricchiolare le assi, impedendo completamente di muoversi silenziosamente. Capivo, scritto in rima per qualche motivo. Sceso l'ultimo scalino, lo scantinato sembra uscito da una favola. Funghi di ogni forma e dimensione coprono il pavimento e anche le pareti, come se fossero mobili o cuscini. Ci sono porte che emergono da stipiti compatti, bianchi e morbidi, come se fossero di cotone, se non fossero attaccati a delle radici più scure che si diramano in ogni direzione. Semi nascosti dalla flora fungina si intravedono delle scritte nere sulle lastre di legno che costituiscono il pavimento. Sembrano formare un cerchio molto largo e al suo interno sono presenti delle linee, sempre composte di scritte nere, quasi interamente coperte dai funghi. Abbiamo anche un'immagine di sta cosa qua, vero Sara? Te l'ho mandato la foto di sta cagata qua o sono pazzo? Sì, l'avevo mandato. Ok, la metto nella chat di questo canale. Se volete la metto anche su Fateless. Nigo. Ok, questo è il bordo, la cosa Sì, interna era troppo un casino da fare, quindi immaginate ci sono delle righe all'interno che formano. Tanto non le vedete, ci sono i funghi sopra. Una donna è seduta su uno dei funghi, ha i capelli castani, lisci e lunghi, che si stanno visibilmente ingrigendo. La sua corporatura snella è nascosta dai vestiti larghi e stinti, con ricami e fiocchi decorativi. Se vuoi mandare l'immagine, Jin, puoi. La donna, che era semisdraiata tra questi funghi. Appena vede Ivan entrare nel luogo, le si illuminano gli occhi, si alza in piedi rapidamente e va ad abbracciare Ivan senza dire una parola. La prendo in braccio, proprio a braccio, proprio da sollevarla da terra. Tutti osservatori silenziosi di questa scena. Abbastanza disgustati, però sì. Wow. Sì, la Madonna. Okay. C'hai 2 anni, Cristo. Literally why. È letteralmente nato scorsa pensa settimana. Pensa che siano carini. Che ore fa? Quanto... Adone pensa ad altro. Adone... No. Ah. Quando la scusa ripeti... Thea, scusa. Non fa niente, sì, lo so. Sì, la rimetto giù. Lo so che non è colpa tua. L'occhio le cade sul tuo anello, lo prende con entrambe le mani, cioè ti tira proprio su il braccio e dice: ma cosa è successo? Penso di essere quasi morto. Maiklon ti ha protetto? Penso di sì, penso che se... Cioè, ho visto una scena, una memoria del nostro matrimonio. E poi ho avuto dei poteri, tipo, che mi hanno salvato, tipo. La... Ho capito. Posso... raccontarti tutto a questo punto. Ricordi che quando ci siamo sposati ti ho detto che avevo fatto un rituale di protezione su questo anello? Sì, avevi detto che era un rituale non con la dea dell'amore ma con il dio del sottosuolo, avevi detto? La dea della vita sotterranea, sì. Ecco, so che né tu né i tuoi amici credete alle divinità, ma ho chiesto alla dea di proteggerti, gliel'ho chiesto direttamente e lei l'ha fatto, si è assicurata che tornassi sano e salvo da me. Grazie a te, perché se non ci fossi stata tu sarei sicuramente morto. Mentre dice queste cose che vi lasciano più o meno perplessi, vedi che sta armeggiando col tuo anello e quelli di voi magically trained vedono che sta facendo qualcosa inerente alla magia. E quando ha finito dice: ok, l'ho riparato e non sarei più in grado di fare una cosa come quella. Ovviamente la dea non è onnipotente, però dovresti essere in grado di pregare. Pregare? Sì, se ti affidi a questo anello e doni la tua anima, cioè doni le tue preghiere, la tua anima alla dea, lei ti proteggerà ancora. E ti ho mandato una lista delle cose che fa questo cazzo di anello. Grazie. E Thea si gira verso di voi, che ormai siete tutti nel piano di sotto, c'è questa roba favolesca di funghi eccetera, quindi in realtà potete sedervi sui funghi se ci tenete a fare questo genere di cose. E ci sono due porte, no. Vi ripeto sta cosa, due porte che sembrano affondare nel cotone, realisticamente sono muffe, ok? E queste porte escono fuori da delle muffe. C'erano già queste porte, però era tipo lo scantinato. No. A parte che lo scantinato tu non credo l'abbia mai visto, cioè era una roba di Dayton per i fatti suoi, cioè non è che ci fa andare la gente per le emergenze, diciamo. Tipo rifugio antiatomico, immagino, no? Mm-hmm. E comunque no, sono tutta novità, sia i funghi che le cose che i segni per terra. Thea vi saluta, si presenta e dice: sono Thea Talos, la moglie di Ivan, e immagino che voi siate quelli che sono stati alla centrale con lui. Sì. Thea si presenta, esatto. Le stringe la mano e dice nome e cognome, la ringrazia per l'ospitalità e dice che sì, eravamo tutti lo stesso gruppo in visita alla centrale. E... odio sto cazzo di bot. Non ho mai odiato qualcosa con questo bot. È proprio una canzone molto molto sentita la presentazione. Naya, shut the fuck up. E niente, vabbè, Naya si presenta e dice questo, questa cosa qua e la ringrazio di nuovo per l'ospitalità. Dayton entro, sussura tra sé e sé. Sì, il posto sarebbe mio, non suo, però va bene, ringrazia pure lei. Naya ha ringraziato anche Dayton, va bene. Barista, d'altronde, non mi offendo per queste cose. Sono nobile, veramente. Sì, ho visto che hai riarredato. Sì. Immagino che dobbiamo delle spiegazioni a vicenda, giusto? Un momento, Mrs. e Mr. Smith, entrambi eravamo spie. La ragazza con gli ingranaggi... Sì, praticamente è stata salvata da un suo patto con il suo dio e il suo... Non credo, Ivan. No? Come... Kiel finalmente sorride. Oh oh! Tua moglie sembra capirmi meglio. Si avvicina. Tende la mano metallica e dice: credo di somigliarti nell'essere il tuo specchio. Thea, in modo esitante, le stringe la mano e dice: in questo mondo forse gli opposti si attraggono. Qual è il tuo nome? Claudia Laikimish. Ho avuto modo di vedere cose strane di recente. Quello che vedo per terra, se non erro, è di natura divina, giusto? Sì, esatto. Era la cosa che vi stavo per spiegare. Una volta che voi mi avreste detto cosa è successo. E quindi... qualcuno che vuole farmi partecipe delle vostre avventure? Penso di doverlo dire io, visto che ti ho mentito. Boh. Di cosa... Allora. Quando a casa mi sono rifiutato di parlare e ho detto che andava tutto bene, in realtà... nella centrale abbiamo visto qualcosa che non dovevamo vedere. Penso ci sia stata una falla nella sicurezza o che qualcuno abbia abbassato le difese. Non so. Io sono solo un operaio, non ne so nulla di centrali. Siamo riusciti ad entrare dentro il nucleo della centrale. Vedi proprio che fa. Oh? E abbiamo visto qualcosa nel nucleo, qualcuno. E Sapresti dirmi il suo nome? Do I remember the fucking name? No, the fucking name. Garla! C'è un nome in questa campagna che rispunta come i funghi di Thea, cioè solo un nome. Promezia? No. Promezia? Oltre a Promezia. Ma abbiamo sentito l'audio? No, ti spiace. No, ti prego. Quello. What is your fucking name, my man? Allegedly è Promezia, Jean. No. Sei tu in denial o... Ti no, no, no, la persona che è dentro la centrale non è Promezia, è... A Legendly ci è stato detto che era Promezia, cioè tipo l'unico momento in cui qualcuno ha provato, ci ha dato un identificativo è stato quello, che poi tu adesso voglia credergli o meno, up to you. Era lì, non era l'imperatrice? Ludolf. Infatti era l'imperatrice. Beh, no, la principe, l'imperatrice. Beh, sì, scusa. Sì. Cosa state dicendo? No, ma cosa state dicendo? No, non è l'imperatrice che è dentro il nucleo della cazzo di centrale, no. No. A parte in verità, la persona invocava il nome di Promezia. Quando siamo entrati dentro il nucleo abbiamo sentito la voce Promezia mi hai rubato il cuore, che è il tizio allegato all'avatar, cioè l'avatar legato dentro a Rale, se è vero. Oh cazzo! Il tuo piano malvagio, Bianic. Hai visto. Fuck! Quindi tutti quanti facciamo una roba diversa. Damn. Sì, sì. Ma infatti vorrei che facessi questa cosa qua come la stai facendo, in character. Ok, continuo. Sì, sì, sì. Mi dici il nome che mi ha dato il tizio? Non ti farà piacere. E Naya... Perché vai. Il tizio dentro la tua testa o comunque nell'altra cosa ti ha detto che è la principessa Promezia. No, aspetta. Sì. Stiamo parlando di cose. Che lui è la principessa Promezia? Cosa? Allora, il tizio ti ha detto che... Naya ti dice che Ludolf... Che... Tea ti ha chiesto il nome di chi c'era dentro e Naya ti vede che stai strangolando un attimino e ti dice quando siamo usciti dal nucleo e abbiamo curato Ludolf, lui ci ha detto svariate cose fra cui il fatto che la persona all'interno del nucleo si chiamasse Promezia. E questo è quello che ci ha detto Ludolf. Però non ha senso, cioè, ha detto Promezia e tu mi hai rivelato il cuore, l'entità, non... Sì. Come fa a chiamarsi Promezia lui se stesso, scusa? A me che ci sono 18 anni. Conosciamo... Sì, ci sono diverse Promezia nella nostra vita, quindi non abbiamo la certezza che la persona però nel nucleo si chiamasse in questo modo. No, però visto che il maggiordomo Eidos stava usando il cuore dell'entità per fare qualcosa, guarire qualcosa alla principessa, direi che la Promezia che gli ha rubato il cuore è la principessa. Questo è il mio ragionamento, è che lui non sia Promezia, cioè che The Entity non sia Promezia, ma sia un'altra. Sì, è una divinità, l'avatar o una divinità. Un avatar, qualcosa che è stato usato... da chi della centrale per produrre qualcosa. Qualche idea sul nome? No. Era... Dico la mia visione di quando l'ho incontrato. Di quando mi è, entrat- di sì. Quando mi è entrato dentro. La ridescrivo io? Sì. Ok, hai visto... un armor clad man con un'armatura metallica annerita, diciamo, con un braccio molto più grande dell'altro, sembrava anche quello di metallo, e la parte inferiore del corpo non c'era, anzi aveva dei tentacoli neri, qualcosa del genere, e aveva un buco nel petto. Poi eri in una situazione molto buia, quindi non riuscivi a capire bene i dettagli di questa cosa. Questa è la descrizione. Racconti questa cosa a Thea, che dice: qualunque cosa fosse, non è del mio dominio. E forse Claudia ha qualche idea più precisa? E io mi giro verso Kegel, sta parlando di lei? Sì, l'ha detto il full name. Avevo capito male, no, scusate. Ho un'idea non molto precisa. Naya fissa. E Naya fissa Adone, esatto. Ricambia lo sguardo e a quel punto Adone dice: so che noi dobbiamo dare svariate diverse spiegazioni, ma io vorrei sapere chi siete voi due. E indica Thea e Claudia, i fucking guess. E a questo punto Adone aggiunge un attimo e dice: e da quella volta della conferenza che mi domando cosa tu abbia fatto e che magia abbia utilizzato. Non sei sposato con qualcuno che ha fatto la stessa cosa? Sì, e come puoi notare dalla mia domanda non mi sono state rivelate molte altre cose, informazioni al riguardo. Quindi io e tuo marito abbiamo molto in comune. Ho notato. E quella volta ho fatto una cosa simile a quella che ho fatto con Ivan, cioè ho invocato Meiklon per proteggerci. Io non voglio risultare scortese e ho già abbastanza prove al riguardo, ma le divinità non dovrebbero più esistere. Non... Ciò che stai descrivendo dovrebbe essere impossibile. E invece? No, capisco il tuo punto, ma hai studiato all'università di Falchena, immagino, dove ha studiato tuo marito. Tutte le università dell'impero, tutte le università del mondo, in realtà, non ti dicono tutta la verità sulla storia. Forse alla Sefin, se fai il corso giusto, scopri un pochino di più. Forse i magister dell'esercito sanno di più, ma è meglio che la gente normale non sappia tutto. Saprebbero gestirlo. E quando una persona normale come me scopre la verità, succedono cose brutte. Nel mio caso ho dovuto abbandonare gli studi, la mia casa, trasferirmi qua. Ora sono contenta di averlo fatto, di averti incontrato ovviamente, però capisci che è stato traumatico almeno all'inizio. E non penso di poterti dire di più. Perché? Se ti dicessi che gli dèi esistono, non mi crederesti. Se ti dicessi che puoi comunque contattarli, mi crederesti? Non ho sentito. Se ti dicessi che puoi comunque contattare gli dèi, mi crederesti? Lì Adone tentenna un pochino. Beh, abbiamo visto Zan Zan farlo real time, però. Sì, esattamente. Cioè, Adone guardandosi attorno, come capisce la magia divina? Cioè, nel senso, shit. Cioè, è letteralmente qualcosa. È tipo come quando Eidos, cioè come la magia di Eidos. No, la magia di Eidos sembrava una versione strana di una magia che comunque sembrava una versione alterata, okay, di una magia che esiste. La magia divina è proprio, okay, bullshit, cioè è proprio come la teurgia senza la parte in cui sai che è teurgia, cioè che c'è uno studio dietro. Mm-hmm. Farti un paragone è come uno scienziato moderno a cui gli parli di astrologia, yeah, ma lui dice delle cose vere e tu sei tipo, no, non va bene questa cosa. Ok, era per, okay, fare un paragone. Madonna. Violento. Adone a questo punto si gira verso... verso Kiel e dice... Quindi quello che tu ci stavi raccontando sui diavoli era una bugia? Sul tuo patto? Credi che siano tanto diversi? Beh, un po' li sono. Fino a poco tempo fa non credevo particolarmente nemmeno nell'esistenza dei diavoli, quindi perdonami se devo processare la cosa. È comprensibile. Madonna, breakdown di Adone, momento. Ciò che... te aveva chiesto il nome della cosa e Raya si gira verso Adone e gli dice, ma... non potrebbe essere quello che abbiamo visto dopo noi? Ovvero? Adone ci pensa un attimo e dice... aspetta, come... intendi... quello senza il cuore o l'uomo che ride? Quello senza il cuore. Non aveva le gambe. La descrizione di Ivan mi sembra abbastanza... vicina, potrei dire. Sì, solo che io non... sì, potrebbero coincidere effettivamente, anche se qualcosa non mi torna. No, mi serve, me, però... finalmente facciamo un roll, scusatemi, che lieto faccio di 10. Direi... entra. Qualunque argomento va bene. Letteralmente uno qualunque. Scegli, almeno 10 l'hai fatto. Sì, almeno 10 l'ho fatto e... ora. Bah, sarebbe mente, yes, o cultura. Quindi due entrambi, non cambia niente. Esatto, esatto. Sì, sì, almeno 10 l'hai fatto. Ora, loro per ora non hanno detto un cazzo. Tu un briciolo di demonologia sai di cosa stai parlando. Ok, hai un'idea precisa, ma soprattutto tu sai lo scherzone della Zenitai, che consiste nel farti vedere il sigillo maledetto di Braxaras e farti impazzire. Okay. Lo scherzone, bro. Lo scherzone della Zenitai. Ok, tu conosci questa storia. Fine. Ok. Ok. Io ho sempre preso per lo scherzone della Zenitai, I guess. Però... non ho capito. Io ho sempre interpretato come lo scherzone della Zenitai. Cioè, non so se ci ho letto più di quello, non penso. Ok, se loro vanno un po' avanti, puoi fare l'unione dei cazzo di puntini. E tu io, scusate... Naya dice il nome. Dice il... cioè, Naya lo dice. Addio, addio Rox. Dice Rox il nome andato mentre parla con Adone. E dillo. Dillo. No! Braxarax. Ah. È quello dello scherzone della Zenith. È quello dello scherzone della Zenith. Qualcuno di voi è venuto alla Zenith? Ne hanno fatto lo scherzone? Ci sta, eh? No, è apparso nella centrale, nel nucleo. Dopo la cosa che è che da quanto sappiamo... quello a cui ti riferisci tu è un sigillo leggermente diverso rispetto a quello che conosciamo noi. Ma questo dici? Quello che abbiamo visto noi aveva 8. Ti prende via la penna! Basta! No, ma non l'avevi finito. E Naya dice che quello che... Naya ti proprio mette la mano sulla spalla e dice quello che abbiamo visto noi aveva 8 rune. Ok. Quello che conosci tu mi sembra ne abbia 5. Contrario. Sì, vabbè. Porco Dio. Cambia poco. Sembrano essere diversi, ok. No, io conosco solamente questo. Qualche altro, però... da quello che so non funzionano, e anche per quello che ho studiato... sotto ogni punto di vista questo funziona. Sfortunatamente sotto ogni vista funziona. Funziona. Gli altri non si. Ok, sì, scusami, no, non volevo contraddirti, sì, però... sì. No, questo funziona, gli altri... ce ne all'elencato di tipo 10, del genere, nominati. E quindi... ti ricordi che ce ne sono 6 che funzionano. E sono 2 sigilli di questo genere qua e 4 sigilli di un altro tipo che non c'entrano un cazzo. Non c'entra proprio niente con questo discorso. Era il riassunto del documento che ti avevo mandato. Sì. Vai. era per dire che ora avete pinpointato sta cosa di Braxaras. E sì, Braxaras sarebbe un demone. Da quello che so. Che tu sappia, ci sono descrizioni o qualche dettaglio su lui come entità o... No, non oltre lo scherzone della Zenith, quindi... Credo sia giusto far sapere a Thea che abbiamo il cuore di questo demone. Cosa? No? What? E indico l'artefatto. Amore, cosa hai in mano? Amore. Un regalino. Amore. Ho cagato fuori. Perché? L'anello mi ha tirato fuori questa cosa. E... Oddio, com'era successo? Aspetta, avevo preso in mano questa cosa. Quando... Tralasciando quello che è successo da Dune, vabbè. Aveva preso in mano questo artefatto che Ludolf stava cercando. Aidos. No, Devin. Aidos, scusa. Sì, ciao a tutti, li abbiamo detti. Devin stava cercando. Aidos teneva nascosto dentro un casale, dentro uno scrigno, e lo usava per curare la principessa, apparentemente. No, questo non lo sappiamo. Devin l'ha detto. Devin l'ha curare? Detto. Curare? Cioè, l'ha portata la principessa per farci qualcosa. Sì, Devin l'ha detto. Devin aveva perché se non ascolti... No, ma curare era proprio... Cioè, non credevo che avesse intenzione. Vabbè. Di preciso, non sapete. Lui aveva detto curare, aveva proposto. E sì. Niente, l'ho preso e l'ho assimilato praticamente, ho parlato con questo apparentemente Braxaras e mi ha detto di portare questo artefatto alla principessa. E penso che non avesse molto buone intenzioni e che volesse tipo vendicarsi. Credo non sia il caso di portarglielo, amore. Penso anche io. Infatti te l'ho portato perché non so cosa farci. Insomma, l'avevi portato quando eri posseduta. C'è stata una breve parentesi in cui l'unica cosa che potevo fare era... fare quello che voleva questo Braxaras. Ah, quindi eri veramente posseduto? No, non ero veramente posseduto. Cioè, no, mia... Senti, no, lo dici anche in carattere se vuoi, ma è che in quel momento dovevo trovare una cura, avevo la cura per curare Ren prima che diventasse un automa mostro babà, prima che si trasformasse, e mi ha detto che mi avrebbe aiutato se avessi portato l'artefatto alla principessa, e il fatto che l'abbiamo ingannato perché non abbiamo portato l'artefatto penso che ci metta nei guai adesso. Beh, tu. Che Yel parla, scusate. La sua rabbia credo sia fine a se stessa, temo. Alla fine non si può manifestare, o sbaglio? No, la rabbia di senza il suo cuore. Esatto. Non so se il cuore sia il problema, ma di sicuro c'è qualcosa che gli impedisce di fare quello che vuole. E lieto si intromette, non dovrebbe essere evocato da qualcuno in ogni caso. Esatto, quindi chiunque l'abbia evocato sta tenendo il guinzaglio molto corto. Quindi sapete cosa farne del cuore? No. È il motivo anche perché siamo venuti qua. Non credo che un artefatto del genere si possa distruggere, basta. Non... Avete provato? No, direi. Ci possiamo sempre provare. Tu cosa dici, Teo? Più che saprei. Altro è che c'è anche da prendere in considerazione che la situazione è completamente diversa rispetto a quella che immaginavamo. A quanto pare la malattia è diventata un'epidemia a tutto spiano. E Ivan a tutti gli effetti aveva la cura. Avevi la cura? Una volta che è entrato in contatto con l'artefatto. In che senso? La cura che mi ha dato Braxaras era estrarre con questa siringa che mi ha fatto costruire lui questo materiale dai corpi, ma non lo stavo estraendo come una normale siringa estrae del sangue. Stavo estraendo quasi magicamente questa polvere dai corpi. Naya prova ad aiutare Ivan e spiega a Tea che quello che ha fatto Ivan è tecnicamente impossibile, che una volta che è entrato in contatto con l'artefatto ha smontato un medikit ed è riuscito a ottenerne questa siringa che ha tolto completamente tutti gli effetti negativi di questa ipotetica possibile malattia, virus, maledizione, non si sa esattamente cosa sia, da una persona che è completamente guarita quando l'abbiamo incontrata, era agli ultimi stadi, era stadi avanzatissimi. Tea guarda Ivan, no. Scusa, e gli fa, come? Come hai fatto? Che ne sai di queste cose? Mi ha guidato, mi ha detto cosa fare Braxaros. Un diavolo ti ha guidato a fare una cosa? No, non era un diavolo. Non esistono i diavoli. Lei sta guardando Kael. È tipo... È in denial. Non ho capito. Braxaros non è un demone? Non abbiamo la certezza che sia Braxaras. Chiede Tea, confusa. E Adone dice, no, siete più voi le esperte di cose impossibili. C'è una differenza fra diavoli e demoni? C'è una differenza fra diavoli e divinità? Se c'è, non ne sono al corrente. Tra diavoli e divinità? Probabile. I culti dei diavoli sono spesso individualisti. Quelli... degli dei collettivisti. Però è una differenza che rimane fra noi umani. Non ci sono. La direzione di culti la diamo noi umani. Troppi capelli. Stava dicendo Lieto. E Lieto si intromette in questa cosa. Effettivamente tutti i libri a cui ho avuto accesso alla Zenitai. Qualche libro riporta l'esistenza di diavoli, non demoni, diavoli nello specifico. Giusto? Sì. Pianica. Ok, posso che non vorrei confondermi. C'è qualche... roba estremamente antica, però ne abbiamo qualche prova. Mentre degli dei comunque sembrano essere favole, mitologia, altre cose. E effettivamente qualcuno dei simboli lasciati, come lo scherzone della Zenitai, sembra funzionare effettivamente. Alcuni non funzionano come descritti, ma hanno effettivamente un effetto. dopo che ho visto far sorgere il sole di notte, onestamente non mi sembra una cosa così assurda in cui credere. Sì, posso comprendere, sì, però rimane il fatto che queste cose sono, dovrebbero essere impossibili da fare, per quanto possa credere o meno nell'esistenza delle divinità, il loro manifestarsi in questo modo dovrebbe essere qualcosa di appunto impossibile da ricreare. Abbiamo non capisco nemmeno come tu ci riesca. Scusatemi, no. Questa cosa non la direbbe Adone. Che cazzo la stavi dicendo? No, non la direbbe sta roba, Adone, scusatemi. Vabbè, a questo punto Adone dice... No, mi sono perso fuori del discorso. Scusatemi. Stava disquisendo sulla differenza tra demoni, divinità e diavoli. Sì. Vabbè. È tipo dell'opinione che onestamente se esiste uno non vedo perché non dovrebbe esistere l'altro, cioè ho visto cosa succedere negli ultimi 2 giorni che tutto ciò che pensavo essere una certezza non lo è, e Naya pensa fra sé, vero cugino. E in ogni caso le divinità, per come vengono raccontate o comunque nel folklore, nella mitologia comune, sembrano essere delle entità molto più potenti, mentre questi possono essere, o potevano essere, evocate dagli esseri umani. È un percorso difficile, sembra dai libri che ho letto, però comunque fattibile per persone esperte. Ed erano effettivamente soggiogati probabilmente una parola forte, comunque all'essere umano che li invocava, in cambio di favori, mainly l'anima di qualcuno. Vedi, qui tu nomini favori, ma quando abbiamo parlato con Zanzane e Batu, non l'ha incontrato, Batu è uno Shunar che... Naya svia il tutto. No, Adone lo dice, Adone lo dice. È tornato in Gulakka. Sono a casa cane. Sua. C'è qualcuno che sta cercando di avere un po' di tatto qua. Scusa. Se permettete. Sì. No, dei modi ormai. È tornato in Gulakka e è andato a comprare le sigarette. Dice che appunto ci ha spiegato come funzionano quegli sciamani e non è una transizione. Loro chiedono l'aiuto dei loro spiriti, li chiamavano così, sì, Batu si riferiva a loro così, e da quanto capisco questi li assistono, e infatti proprio tuo padre ha evocato il sole, e lei si gira verso gli altri per confermare che questa cosa sia successa e che non sia impazzito. Adone annuisce. Claudia fa... Questo comunque non prova la loro differenza. Una di queste persone per caso è ancora viva per confermare questa storia, o comunque per assicurare che non ci sia stata una transazione di qualche genere. Cioè, mi sono perso io di fra Batu e sì, fra Zanzan e la divinità. In realtà la domanda è, okay, potete essere certi che non c'è stata una transazione? Esatto. Morti. E Naya ti dice che abbiamo proprio chiesto questa cosa specifica, che era sana anche a loro, e Batu si era riferito, cioè aveva spiegato questa netta differenza fra quelle che chiamiamo noi divinità e fra i loro spiriti, dove appunto noi vediamo tutto in modo transattivo, cioè come una transizione, mentre per loro non esiste questo cioè un concetto completamente diverso, il modo in cui funziona la loro magia dal loro punto di vista, cioè più come una collaborazione che uno scambio, da quanto aveva spiegato Batu. Correggetemi se sbaglio, qui presenti, per favore. Anche Bianic, perché sono un po' stanca e non ho voglia di rileggermi tutti i miei appunti. Per favore. No, sì, dovrebbe essere più o meno questo, quello che ci ha spiegato. E Batu era anche sorpreso dal fatto che i suoi spiriti fossero gli stessi delle zone di Zan Zan. Sì, c'era questa possibilità, non ne siamo sicuri, però a quanto pare hanno degli spiriti in comune. Cioè, se vuoi ti spieghiamo più nel dettaglio, però non so se... Non è il momento. Ho sempre pensato che gli unici dei veri fossero i nostri. Egoista da parte mia, in effetti. Tea, sta parlando. Sì, sì. Ok. Naya Susur racconta che io pensavo che manco esistessero, quindi vieni su. Chi sta messo meglio di un porco? Cioè che fossero... tutti come i nostri, anche per gli altri popoli, solo... con un altro nome, come Vama, che si chiama Afros, da altre parti. O Eriots e Dauti, che hanno due nomi diversi per la stessa cosa. Chi era Dauti? Quello della morte. Ah, ecco, grazie. Allora, Xundrice, scusami se te lo chiedo, Tea, ma tu com'è che hai iniziato a credere nelle divinità? Nel senso... La mia nonna viveva in campagna e... Beh, nelle campagne di Achaia sta gente continua a credere negli dei. Si fanno ancora i sacrifici per il raccolto. Raccolto. E devo andare a cercare il cazzo di nome della dea del raccolto. Credo sia Keres qualcosa. E... Ok, beh. Charz. Nome del genere. E altre divinità sono quelle del mare. I pescatori fanno offerte a Zagon prima di partire. Ce ne sono... Per Staia anche. Mai sentito. Cioè, mai venerato. Quindi non esiste. Non a casa mia. Questo è un posto cristiano! Voglio bene le tue parti, non bestemmiare qua. Mi ha spaccato. Ers era la dea del... Ma capo, ma Achaies non è il posto dei genitori di Sylas? Perché Pelstai è una divinità Scati. Cioè, dell'estremo nord. Mi sono perso. Perché va bene. Non vedo ora il collegamento, Eddie. Perché dovrebbe essere collegato a una divinità tuo marito? Adesso io no. questo egoismo. Madonna. Letteralmente detto Tea. Shut the fuck up. Bomba su palcena. Check. Gatekeep. Check. Girl boss. Check. Mascara. Ok. Allora Done insiste e hai detto che hai scoperto la verità. Non credo che basti semplicemente credere e utilizzare la magia per allarmare l'impero? Beh, siete stati tutti dentro il nucleo, mi pare di capire, a parte Kiel, che però... No, stata... Solo dentro un altro nucleo, a Singida. E Lieto aggiunge, io no. Lieto, tutto questo, ha avuto l'occasione di levarsi dal cazzo e campare 100 anni, ma ha deciso, viva la morte, tempo di... Chi è questa Dauti? Fammi la googolare un attimo. A proposito di Singida. Mi sono ricordato... quando ho rivissuto il matrimonio, che tua sorella sì è Pippi? Pimpi. Pimpi? Che cazzo è? No. Tua sorella Pimpa. La Pimpa. Ma vaffanculo, ma scusa. Non ho capito. ammazzando. Ovviamente questa cosa non succede in game. Canonicamente la pimpa esiste. La pimpa esiste in questo universo. Epimetea. Sì. Epimetea, ecco. È un po' più semplice ricordarsi Pimpi piuttosto che Epimetea. La Pimpi. La Pimpi. È letteralmente casa. Siamo del nord qua. Vabbè. Ragazzi. Ci sono. Okay. Scusa, sono andata avanti. Aveva detto che i vostri genitori apparentemente lavoravano a Singida. No, padre, scusa, solo il padre. Mio padre, la madre no. Lavorava da Peira. Ah, non a Peira, no, ah. No, aspetta, no. Scusa, chi sta parlando? Kiel? No, sta parlando Tea. Ok. Mi ricordavo male? Sì. Alla centrale di Peira lavorava mio padre prima di andare in pensione. Ok. Ho sbagliato io. No, Singida è quello che sta successo, sta sì. Succedendo stasera, I guess. Ah, allora, a proposito di Singida. Lei something is going on. Ovviamente. Ah, glielo stai raccontando, quello che avete visto? Yeah. Ok, ho bisogno di 3 secondi per vedere se ho una reazione se a questa cosa. Se ti amore o no. Raga, troppi nomi, non si... Cioè, prossima volta mi dici, però, Milano, Brescia, Bergamo, Bologna, fine. Non potevi chiamarmi bimbi, bimbi. Ma cosa volete anche che si chiamano tutte Pomezia, un nome da tenere a mente, basta, hai fatta. Sì. Promezia per tutti. Come ti chiami Pomezia a questo punto, porco Dio, tanto. Sì, transizione, basta. Tanto non so dove devo spendere. Divento Promezia Junior Pjanic. Wow. Cambio nome ma non per via del gender. Mi sono rotto i coglioni. È tempo di diventare Promezia. Scusate. Detroit become Promezia. Wow. Che un porco. Siamo un punto di Promezia. Bel take. Quante Pomezie servono per farle diventare una divinità? Pure di parlare e nominarle costantemente in questo modo, con tutte queste energie, qualcosa succederà. È il dilemma del Sorite, Serite, come cazzo si dice? Viene in soccorso. So che no, sai. Non me lo ricordo il nome, non me lo ricordo. Vabbè, il dilemma del sacchetto di sabbia. No, non so cosa sia. Però. 5 granelli di sabbia non sono un mucchio di sabbia. Un sacchetto di sabbia è un mucchio di sabbia. Quando è che i granelli diventano un mucchio? Quando ho voglia io. Grande Rox, hai risolto un problema di 2000 anni. 2600 anni. Quando vuoi. Prego. Non ho problem solver per nulla sul curriculum. Eddie, mi spiace. Hai sbagliato campagna. Guarda che fai parte degli unreliable narrators. Lati positivi, giocare a campagna di Bianchi. Lati negativi, giocare a campagna di Bianchi. Guarda, mi sono andati i capelli bianchi. Nello stress. Wow. Ok, ci siamo quasi. Risparmiare sulla bleach. Che vita di stenti. Comunque. Ritorno un attimo a monte, tralasciando i discorsi sulla religione e sulle questioni. Vedete che ci sono 2 porte? Mm-hmm. Sì. Sono parte della mia magia protettiva. A terra c'è un sigillo, un cerchio magico, che protegge chiunque al suo interno da qualunque forma di magia. Ho creato questa zona per difendermi dall'esercito se avesse tentato di cercarmi, come dicevi tu nella lettera, Ivan. E però la stessa magia mi permette di teletrasportarmi. Aprendo le porte vi ritroverete dall'altro lato. in una delle altre porte che ho creato. Ok, dove le create le altre porte? Ecco, su questa cosa non so se ti farà piacere. Una ad Algies e l'altra ad Apeira. Una è vicina a casa di mia sorella e l'altra... Ricordi quella volta che siamo stati al convegno ad Algies? Mm-hmm. Se ti ricordi, a un certo punto mi sono allontanata. Ecco, ho fatto questo rituale nello scantinato dell'albergo. No, you didn't. Avevo paura che un giorno sarebbe servita questa cosa. Dopo aver visto... Okay. Dopo aver usato i manapenni per evocare Meiklon. Beh, puoi biasimarmi? Alla fine non avevo tutti i torti. Adone sta guardando nella camera. Quindi, se avete bisogno di fuggire, beh, un metodo c'è. Ok. E con Mr. Robot qua? E indico Caleb. Io sto bene. Mi fido. Forse avrei bisogno di andarmene per evitare di essere catturata dall'impero. Non credo che riuscirei a risolvere i loro dubbi sulla mia onestà. Le sigarette sembrano aver aiutato Kiel. Non particolarmente, no. Una in più, una in meno. Naya, volevo un attimo fare un'altra domanda a Thea e le chiede, le dice, scusami se svio un attimo il discorso, ma la cosa strana è che a parte che ci siamo incontrati tutti quanti per la visita alla centrale, abbiamo anche scoperto di essere tutti quanti collegati in un modo o nell'altro a persone che si chiamano Promizia. Ok. C'è un motivo perché tu ti chiami così, cioè, so che è una domanda veramente stupida, però sei la prima che incontriamo di tutte le nostre, quindi... Beh, dalle mie parti è un nome comune, si tende ad andare a... ma un nome che si dà spesso ai figli, cioè alle figlie maggiori. E... non credo, non ho mai chiesto in realtà ai miei genitori se mi avessero dato questo nome per un motivo particolare. Ok, niente, volevo... mi valeva la pena chiedere, grazie. Pensi che ci sia un collegamento, invece? Non saprei, però è strano che di tutti i presenti tutti quanti siamo collegati a una Promizia. Perché qui non è così comune come nome. E veniamo anche tutti da posti molto diversi. Sì, però... io e mia cugina. Io in Chionchi. Mio cugino. Cosa smette di misgenderare Naya, poverino? Capisco che è molto carino. È un nome migliore di Naya, mi spiace. Naio. Detto da uno che si chiama Lieto, I will not listen to that. Ce l'ho alla fine, basta. Almeno non sono nata dalla parola, comunque. Wow. Naya non lo direbbe mai, io sì. Esatto. E... aspetta, perso il filo. Il mio nome in realtà è Prometea, non Promezia. L'accento, è l'accento che... No, la T. Inganna. Sì, sì. C'hanno la Z, non... Promezia. Un attimo di meta. Io mi ricordo che eravamo arrivati alla conclusione che era la stessa cosa, però non mi ricordo più quale cazzo fosse il filo conduttore. Adone dice, Prometea ecco. Vuol dire... colei che pensa prima, giusto? Una cosa simile. Suppongo di sì in lingua di Achaias. Promezia anche... più che altro è sempre quello il significato, abbiamo appurato anche negli altri posti. Sì, sì, è solo che Sono due varianti dello stesso nome. Quindi ti chiami Promezia alla fine della fiera. L'etimologia è la stessa. Come dire Ilaria e Blight. Tu hai una certa difficoltà con i nomi. Detto questo... Vi fu risposta. Gliel'abbiamo già detto della visione, mi ricordo. Quale delle tante? Della strage di Singida, tecnicamente gliel'abbiamo detta, poi te ha risposto parlando delle porte, quindi non so. Cioè, gliela stavamo descrivendo, gliela descriviamo in character bianici un minimo. Come vuoi. No, dici tu, perché praticamente, ti dico, Ivan gliel'ha detta. Ok, mi ero perso sta cosa. Mi ero perso il fatto che non avesse detto niente, non ho fatto nessuna reazione, ci sta. Ah no, aspetta, ma avete detto la roba di Singida e io vi ho detto, lei non sa niente perché giustamente... Cosa dovrebbe esatto, sapere noi detto, e tipo, Ivan le spiega e però tu hai reagito parlando delle porte, quindi credo ci sia stato un po' di miscommunication, okay. Non è che non ho capito male l'interazione che c'è stata. Sì, sì, facciamo che Ivan glielo sta rispiegando adesso. E... Matteo non sa nulla di sta cosa, quindi cioè non so come dovrebbe reagire, tipo... È veramente terribile che sia successa questa cosa. Quelle persone non si meritavano di morire. Intendendo che quello che abbiamo visto, cioè il fatto che si siano, come si dice, cancellati i contratti, ci ha fatto vedere questa cosa. Vorrà mica dire che... abbiamo lasciato che questo accadesse? Beh, se non era solo un'allucinazione, sembrerebbe di sì. Quindi è quella distruzione colpa nostra? Direi di sì. E quindi come ci devo dormire la notte? No? Non ci dormo la notte? Hai fatto quello che dovevi, Ivan. No, amore, non penso di aver fatto quello che devo fare. Era l'unico modo per andartene. Mi sa che mi ammazzo. No, dai. Easy. Se lo fai, dimmi dove che mi unisco. That's the weirdest TPK, I've ever read. Ti disturberebbe un pochino. Amore, fai un albero così mi impicco. Un albero che mi impicco. No. Dai, amore. No, ci siamo rivisti dopo tanto tempo. Non voglio perderti. Detto questo, Done vi guarda un attimino e riprendendo quello che ha detto Thea, dice: quindi dovremmo scappare? Cioè, guarda un po' come dire, cioè, cosa avete intenzione di fare voi? Dobbiamo scegliere cosa fare con l'artefatto. Perché da un lato... possibilità che questo artefatto abbia una cura per ciò che si stia scatenando anche a causa nostra sulla città e... possibilmente sul paese è una nostra responsabilità. Sì, ma in cambio cosa gli vuoi dare? Perché chiaramente gli devi dare qualcosa in cambio e l'abbiamo già tradito una volta. Cioè, vorrei dirti. Dobbiamo fare quello che vuole lui per avere qualcosa che vogliamo noi. Ma già abbiamo avuto. Si tratta sempre di una compravendita con i diavoli. Sì, ma stiamo parlando della vita... di tutti quanti. Ah, se vuoi farti possedere e dare quello che vuoi in cambio. E Claudia ha detto che forse non basta il cuore per gli scopi di Braxras. Non sto giustificando la consegna del cuore, però dico solo che forse non è quello che forse gli serve di più. È solo un pezzo del puzzle. No, perché mi hai guardato così, pianici? Che quello ha scritto Rox, non guardavo te. Ok, scusa. Fu gratuito. Culate. Nel senso, mi penso quelle... Tecnicamente rimangono, cioè, sei più una che sarebbe quella della centrale, che I fucking guess non si chiama Promezia. Ah, no. Però l'altra volta... Non stiamo parlando del numero di Promezia? Ho capito, no, male? No, niente, niente. Le volte che è stata inculata questa entità, io mi ero segnata 5. Scusate. Ha smesso di essere divertente sto numero. Mai. Scusate. Che cazzo pensai? Vabbè. Potete... Adonite, detto sta cosa del cuore. Potete anche pensarci domattina. Questo luogo è un santuario sicuro. Se non vi scoccio a dormire sui funghi è... Andiamo un attimo a curarci prima. E... È anche un santuario curativo, se riposate qua l'effetto dell'area vi guarirà da ogni ferita. What? È lì a funghi. Chomp chomp. Lei ha poi fatto tipo una sequenza di domande estremamente specifiche su come funziona questa magia atea. Sì, anche subito te lo dico già che è una variante di una spell che c'era in Pentagon, quindi in realtà non è così strano. Solo che la magia base credo sia ontica, questa qua è di magia naturale, per il resto è proprio la spell da manuale. Ok. Dopo te la cerco. No, ma in generale domande su come funziona la sua magia, eccetera, perché non penso che... Cioè, penso che lei abbia una vaga idea di come funziona la magia naturale, ma non penso che abbia mai fatto un deep dive intenso. Guarda, c'è Adonelia per rompere i coglioni per questa cosa. Esattamente. Avuto anche Zanzan che ti avrebbe detto Magic! Sì, vabbè, Zanzan avrebbe... Hai dovuto vuotare questo game pad. Ok. Se vi mettete a dormire vi faccio... Cioè, wrappiamo up la sessione. Io non volevo dormire. Vai, perfetto. Ecco, facciamo così. Una alla volta. Io volevo aspettare che tutti dormissero. Eccezionale. Volevo fare cliffhanger. Facciamo il cliffhanger. No, no, no. Facciamo sta cosa. Adone va a dormire. Gideon va a dormire, Gideon stava già dormendo. Gideon stava sdraiato su un fungo con un altro fungo come cuscino. Ci sta. Penso di essere l'unico, a parte Leto, che allora, di rimanere in piedi più a lungo. L'area è un cerchio 8 metri di diametro, quindi credo ci stiate tutti. Contate che, come cazzo si chiama, Kael non ha bisogno di dormire. E Naya le dice che se sente che cambia qualcosa di svegliarlo, e lui si mette a dormire vicino a lei per sicurezza. Ok, lei si siede fuori dal cerchio per terra, meditando. Steal my orb. Ok. No, non puoi essere consapevole di quello che voglio fare, scusami. No, ho troppo sonno, però so che you're gonna steal my orb. Ivan e Thea dormono abbracciati su un fungo più grande degli altri. Mamma Naya... e papà. I grandi pupo. E Naya te l'ho detto appunto vicino a Kael, vabbè, sul bordo di sto cazzo di cerchio. Appallottolato come un cagnolino. Sì. Mi manca solo Lieto. Lieto vorrebbe stare sveglio in realtà. Ma allora, è abbastanza tardi che si fa la giornata dopo. Allora, come cazzo la facciamo? Ti faccio prendere un D6 fatica se vuoi fare sta cagata. Minchia. Un po' tanto. Hai usato un sacco di magia, Endor, hai camminato che... un botto. No, e allora è solo... anche dietro la nanna. Ok. Allora, facciamo quindi la scena di Erindor. Esatto. Oh my god. Da toccare l'artefatto e si sentono le parole in culo ai Dauti. In culo ai Dauti, è vero? Voi? Cosa si sente? Aspetta un attimo. Che cazzo hai appena fatto? Poi stavate dormendo. Sono le 6 del mattino, ci sono le prime luci dell'alba. Sentite questa frase detta a voce alta, in culo a Doughty. E Thea sa cos'è Doughty. Lieto forse un'idea di cosa sia Doughty ce l'ha. Un paio di voi qualche volta la dea della morte l'hanno sentita nominare. Qualcuno ce l'ha nel cognome. E quelli di voi che aprono gli occhi, che riescono a vedere la scena, compresa Kayel, compreso Lieto che va al sonno leggero, vedono Erindor tendere la mano verso la palla di Sterpi, pronunciare questa parola, questa frase, urlando, e sparire. Assieme al... Anche la palla? Insieme alla palla. Insieme a tutta la palla. E Kayel dice... Ah già, ecco cos'era la... il contratto che non avevo tolto. Esiste un però. Non pensavo sarebbe stato un problema. Gideon fa proprio domani mattina. Kinerindor. Dai, ti scuoti, è già domani mattina. Siamo andati a letto alle 4 del mattino. Che contratto era, perlomeno? Credo, se ho capito bene, fosse un contratto di quelli delle scuole che ti teletrasportano fuori se lo sciogli. Qualcuno deve averlo programmato al contrario. Te che si è svegliata, poi l'ha notato, dice... Stai parlando in modo diverso da ieri sera o...? Lo stavo dicendo adesso. Scusa, dillo pure. Sì. No, e dai, dice, vedo che ti sei anche ripresa, o sbaglio? Sì, forse era quell'oggetto a confondermi. Dai, tira un sospiro di sollievo che non sapeva di star tenendo, di tipo, figa, meno male. Non lo dice, ma glielo si legge in faccia che è sollevato dal fatto che stia meglio. Mi ricordo il piano di Devin. Voleva rendere il mondo un posto migliore usando l'artefatto... per scoprire i segreti della tecnologia che Xadak ci tiene ancora nascosti. Quello che ha detto noi è che voleva ripulire. Vabbè, che io tecnicamente non dovrei seguire questo discorso. No, va da un'altra parte. A noi ha detto che in realtà le sue intenzioni erano molto diverse, molto meno nobili. E cita quello che aveva detto Devin parola per parola sull'estirpare le erbacce e il fatto che abbiamo trovato Batu morto e trasformato. Vabbè, era uno scheletro, cioè, non so se fosse Batu. Stai, ma... zitto, non ci sei. Non gli è mai stato simpatico. Possibile che volesse unire l'utile al dilettevole. Da quello che abbiamo saputo di Devin, aveva avuto aveva avuto dei traumi per colpa di... l'ha già detto Naya? Ce l'ha detto Kayel. Lei che ce l'ha detto. Allora sì. Niente. He was racist. Possibilmente aveva molti lati negativi. Non è morto, vero? L'abbiamo lasciato in vita. Beh, forse lui saprebbe cosa fare dell'artefatto che chiaramente non è più qui. Nessuno di noi ha idea di dove potrebbe essere andato Erindor, vero? Io ho un sospetto che ha detto magia delle scuole. È una magia tipica delle scuole, no? Ha detto Vianic. Scusa. E ho un sospetto che lo stia portando o al suo datore di lavoro o al rettore, forse. In ogni caso ormai è andato. Sbaglio o la frase che ha detto per attivare il contratto è stato in culo ad Auti? Sì, l'ho sentita anch'io. I presenti? Sì, sembrerebbe proprio quella. Colorata espressione. Non l'avrei scelta per una magia. Beh, diciamo che... Qualche tuo parente l'avrebbe fatto, invece. Bene, voi siete rimasti perplessi da questa cosa. Dall'altro lato, voi non sapete dove, io lo so molto bene, e questa cosa un po' elettronica è strana. Vediamo se dopo c'è qualcosa di meno stupido. No, non c'era qualcosa di meno stupido dopo, c'era il niente. Ci stava come ending. No, non lo so. Il vuoto. Va bene, cioè che Erindor è un personaggio strano, ma metterci la musica elettronica mi sembra sinceramente troppo. Ti trovi, se parte la musica meglio, se no amen, in un posto relativamente familiare. Una safe house. Sei al secondo piano della safe house. Compari all'improvviso di fianco a un letto. E sul letto c'è una donna che è, non dico in desabilie, ma comunque vestiti adatti al dormire più che al fare altre attività, considerando anche l'ora della notte. Ha i capelli tinti di nero con una ciocca rossa. Ah, e... vabbè, abbiamo già capito chi è. E al momento sono tutti sparpagliati sul letto, spettinati, fuori posto. E appena ti teletrasporti, vieni lanciato magicamente in quel posto, si sveglia di soprassalto dicendo: "Dau tempestata". Erindor, sa il tuo nome, giusto? Sì, lo sapevo. Non è un po' presto per sta cosa? Non dipendeva da me, sinceramente. Giusto. Hai recuperato l'artefatto? Ho dentro questa groviglio di Rome. E sarebbe meglio che se non hai qualcuno esperto per gestire questa situazione, è meglio che rimanga in mezzo a queste rune. Ah, questa vaga tendenza di impossessarsi. Vaga? Dio, deficiente. Scrivilo. Okay. Vaga tendenza a impossessarsi della gente. Non ti preoccupare. Quindi hai intenzione di cenare al tavolo di chi comanda nella famiglia? Direi di sì. Dopo questa fatica direi che... Si toglie la coperta. Anche, ce n'è parecchie da raccontare, però. Si toglie la coperta, scende dal letto. Scendendo dal letto vedi che prende una catenella d'oro, se la lega al polso, prende l'anello della corona, se lo infila al dito, prende un altro oggetto, un pendente di qualche genere, e lo stringe nella mano. E fa il giro del letto, si mette davanti a te. Quanto è alto Erindor? Avevo messo 1,74 o qualcosa del genere, se non sbaglio. È scalza al momento, quindi è leggermente più bassa di te. Sì, ok. Tipo un paio di centimetri più bassa di te. Mette la mano avanti per farsi porgere l'oggetto. Glielo do, è una palla medica praticamente. Con tu dormi con le scarpe a letto? Cioè, esatto. Gli americani lo fanno ed è una cosa che io... Esatto, cioè devono morire tutti, devono. No, poi te lo spiego e ti dico, vai avanti. Inizia a fare qualche cosa strana sulla palla. Ci passa sopra, ci picchietta sopra la palla questo pendente. E vedi che dai rami della palla affiorano delle luci. E poi finalmente il globo viene aperto come l'interno di una noce. Lo guarda e dice: "Ne ho viste di cose strane. Ma questa... Wow." Lo tocca a mani nude. No, io cerco di provare a fermare. Lo alza. Non hai sentito quello che ti ho detto? Non ti preoccupare. Artefatto diabolico. un'entità di un altro mondo, qualcosa mai visto prima. Sai, Erindor, loro credono di essere così tanto più forti di noi, ma se avessi una moneta, una sola moneta per ogni volta che uno di loro ha provato ad ammazzarmi e ha fallito, non avrei bisogno di fare questo lavoro. Stringe la mano e il cuore, come l'abbiamo chiamato, che è una palla formata di tutti questi anelli, sembra comprimersi. Gli anelli si allineano tutti, formando tanti cerchi concentrici, quindi un disco praticamente. Ma tutti loro, quando li prendi per le palle, non sanno esattamente cosa fare. Madonna, che gigazzo! E l'anello si trasporta dalla sua mano a dietro la sua schiena e diventa una specie di aureola, quella delle divinità indiane. Cos'è, Majoraga? Vabbè. Shriek! Grazie per i tuoi contributi. Ora no, perché siamo nella mia camera da letto e sono le 6 del mattino. Ma domani di buon'ora, chiamerò il resto della famiglia. Ti nominerò come uno dei grandi attendenti della nostra nobile famiglia. Dimmi, preferiresti diventare a capo del distaccamento religioso, quello commerciale, sicari? Beh, direi che quello commerciale, dato anche il mio passato, sembra quello che mi ha più mi servito. Almeno ho delle competenze, dai. Interessante. Oh, sta già funzionando! Oh! Tu non l'hai fatto, vero? Tu non hai interagito con questo oggetto? Non io, qualcun altro sì, però. Senza sapere cosa stava facendo, immagino. Ovviamente. Questo oggetto dà visioni della tecnologia, ti permette di vedere le strutture nascoste all'interno del mondo, cose che gli uomini scopriranno fra centinaia se non migliaia di anni. Ok, ora... io sono abbastanza gasato. E ora io lo sto vedendo davanti a me. Ogni soluzione ai nostri problemi. Riesco a vedere migliaia di anni nel futuro, macchine che volano, la possibilità di connettersi con chiunque. Nessun costo per parlare, nessun costo per comunicare. Entità che si muovono da sole, autosufficienti. È affascinante. Fanno sembrare le nostre apparecchiature e i manapenni uscite dalla preistoria. E i treni che si muovono così lenti rispetto alle loro tecnologie. E le armi. Oh, Erindor, vedessi. Loro sì che riescono a incenerire città con uno schiocco di dita, premendo un tasto. Ma, per nostra fortuna è entrato nelle mani di qualcuno che è molto temperante e sa quello che deve fare con questo genere di cose e non metterà a rischio il mondo. No, io mi limiterò a far progredire la razza umana. Sì, cederò a tutti gli uomini del mondo piccole tecnologie a un prezzo ragionevole. Esatto. Non è quello che fa in base praticamente l'intero... Cioè, con la ricerca in generale, ancora no? O esatto. Carter. E noi ora siamo appena diventati i loro più grandi avversari. Ah! Competitors! Evviva! Abbattiamo i cartelli! Però, per stasera, basta. Fa un movimento con le mani, la sfera ricompare sulle... È il contrario, si sta abbattendo un monopolio, ma cosa dici? Scusa. Ricompare come una sfera nella sua mano, lei la picchietta col pendente e il pendente assorbe la sfera, poi se lo mette al collo, si siede sul letto allargando le gambe e dice: di sotto dovrebbe esserci un divano, se vuoi passare la notte lì sei il benvenuto. Domani ti porterò a Branziga. Ho un colloquio con gli altri membri della famiglia lì. Farò presente il tuo nome e entrerai a far parte nella famiglia con un ruolo dirigenziale. Ok, c'è ancora molto da discutere, ma sono abbastanza stanco, quindi va bene. Sì, avrei tutto il giorno di domani per pensarci. Prego. Ah, di sotto c'è il mio attendente, quello muscoloso dell'altra volta. Svegliato. Ah. Ok. Posso evitare di svegliare? Sì, sì, sì. Ti muovi okay. Molto silenziosamente, c'è un luogo libero e ti addormenti. Ok. Non so se lo contiamo come cliffhanger, ma finiamo qua. Ora, prima che io vi saluti, Erindor ha finito la sua trama, come avrà intuito. Cioè, non c'ho nessun motivo valido per fargli fare dell'altro. Esatto. Quindi possiamo discutere su cosa farti fare da qui in poi. In secondo luogo, voi per la prossima volta dovete decidere cosa fare. Quindi a me va bene se passate un'altra sessione tipo questa in cui discutete cosa volete fare. Se invece preferite parlarne per i cazzi vostri, lo fate via Telegram e poi iniziamo la prossima sessione da dove siamo. Come volete. Cioè io vi propongo, raga, questa cosa.